Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ci sono favole che non si dimenticano, colonne sonore che hanno accompagnato la nostra infanzia, che ci hanno aiutato a crescere e che hanno alimentato i nostri sogni di bambini a suon di note, come la Cenerentola che abbiamo appena sentito, intenta a gorgheggiare per tenere a galla la speranza di una vita migliore. I sogni son desideri, cantava, e oggi Destini Incrociati ci parla proprio di sogni che son desideri e che diventano realtà. Di come, quando tutto sembra andare nella direzione sbagliata, la vita è pronta a rimetterti in carreggiata, sorretta da un'incrollabile volontà. Oh, mammina, siamo tornati. Tornati? Meno i bimbi sperduti, e non ne avevano ancora voglia. Sperduti, voglia? Di crescere, e hanno fatto ritorno all'isola che non c'è. Che non c'è? Sì, ma io ce l'ho. Cosa hai? Voglia di crescere. Oh, certo, mia cara, a suo tempo. Dopotutto io credo. Sai, mammina, è stato davvero straordinario. Trilli, le sirene e Peter Pan, il più straordinario di tutti, persino quando siamo stati rapiti io. Rapiti? Io sapevo che Peter Pan ci avrebbe salvati. Quello che avete sentito è forse un caso più unico che raro. Una favola, il protagonista di un racconto che non solo entra nelle case di tutto il mondo, ma siede anche nelle sale d'attesa degli studi medici. Peter Pan, infatti, oltre a essere il ragazzino che aiuta i bimbi sperduti e affronta senza paura Capitan Uncino e la sua ciurma, è anche il nome di una sindrome, che probabilmente non troverete mai citata esplicitamente nei libri di medicina, ma che esiste nell'indice dell'immaginario comune. Ognuno di noi, nella sua cerchia più o meno ristretta di conoscenze, ha avuto la sensazione almeno una volta di trovarsi di fronte a un evidente caso di adulto che in qualche modo si rifiuta di crescere o che, crescendo, si rifiuta di abbandonare certi atteggiamenti. Come se avesse ancora i denti da latte sotto i baffi. Compro l'ego, voglio l'ego. Corri, il soldo. Questo, il soldo. Ma cosa sta facendo, scusi? Mi lasci stare la vetrina. Compro questo, i soldi. No, il Lego non glielo posso dare. Questi soldi non bastano. Ma come, stamattina ho compiuto 8 anni e niente Lego. Sono grande, vogliamo vedere il Lego. Se non esce immediatamente da questo negozio, chiamo la polizia. La polizia, no. Il Lego. Certo, non c'è bisogno di arrivare a questi estremi. Per il fanciullo che è in ognuno di noi è sufficiente la giusta quantità di spensieratezza. La storia di oggi è come la ricetta di una torta buonissima, fatta di ingredienti diversi, ben amalgamati e ben dosati, con la stessa magia che si prova quando, una volta preparato il tutto, la si mette in forno e dopo un po' la si tira fuori e ci si accorge con stupore che è esattamente come nella foto e il sapore è esattamente quello che quella torta deve avere. Facciamo un salto oltreoceano. Hollywood, California. Un buon posto per nascere con dei sogni. È qui che il 12 gennaio 1957 Jewel May, insegnante di arte alla Bell Garden High School, e Paul Ewell Lasseter, responsabile componenti per la Chevrolet, danno alla luce un figlio, John Alan Lasseter. John cresce a Whittier, un sobborgo che si trova a 12 miglia a sud-est della sterminata area che comprende la città di Los Angeles. La professione della madre certamente contribuisce a influenzare l'infanzia di John, e non solo lui. Il fratello adora scolpire e il fai da te, mentre la sorella cuce, dipinge e si diverte a sfornare le cornie. Sembra una famiglia di piccoli artigiani pieni di creatività. John non perde occasione per scarabocchiare appena in grado in ogni momento. Non è raro per familiari e conoscenti vederlo correre verso casa appena uscito da scuola per non perdersi i suoi cartoni preferiti. John ha dentro il suo corpicino minuto di bambino un desiderio che comincia a farsi spazio e che piano piano si allarga prendendo possesso di tutti gli organi. Crescendo, il ragazzo si rende conto che il mondo animato è molto più di un semplice e divertente passatempo. Così capita che, leggendo libri tipo L'arte dell'animazione di Bob Thomas, in cui ritrova la Cenerentola che abbiamo sentito all'inizio, o assistendo alla proiezione di un cartone, John realizzi quale sarà il suo futuro. Posso dire esattamente quando ho capito che avrei lavorato nell'animazione. Stavano proiettando La spada nella roccia nella sala locale. All'epoca costava 49 centesimi. Finita la proiezione, mia madre venne a prendermi e io le dissi: voglio fare animazione, voglio lavorare alla Disney. E fortunatamente mia madre lavorava nel campo dell'arte da tanti anni e per questo mi ha supportato fin dagli inizi. John sembra convinto e il cinema gli dà una mano. Mentre rincorre i suoi sogni, esce Guerre Stellari, la pellicola che, oltre a stupire il mondo intero per i suoi effetti speciali, unisce piccoli e grandi che, mano nella mano, si accomodano in poltrona. Ho qui qualcosa per te. Tuo padre voleva che tu l'avessi quando raggiungevi l'età giusta, ma tuo zio non ne volle sapere. Temeva che potessi seguire il vecchio Obi-Wan in qualche pazza crociata idealistica, come fece tuo padre. Se non ha bisogno di me, signore, io mi spegnerei per un po'. Fai pure, certo. Che cos'è? È la spada laser di tuo padre. Questa è l'arma dei Cavalieri Jedi. Terminata la high school, John si iscrive a un programma della California Institute of the Arts, che per la prima volta dedica un corso specifico alla character animation, separandola dalla graphic animation. È la stessa Disney, orfana da una decina di anni del suo padre Walt, a finanziare questo corso. John è il secondo studente ad essere accettato. Qui si ferma per 4 anni ed entra in contatto con molti studenti che ritroverà più avanti nel suo lavoro. Durante questo percorso si cimenta nei primi tentativi di animazione da lui realizzati. 2 corti, The Lady and the Lamp e Nightmare, gli valgono altrettanti riconoscimenti da parte dell'accademia a cui è iscritto. Alla fine degli studi, il suo futuro pare segnato. Mentre studia, si tiene in contatto con la Disney, cercando di carpirne i segreti e di ritagliarsi un futuro posto di lavoro, una specie di ossessione. Quando la sua domanda di lavoro viene accettata, sembra il naturale proseguimento della sua carriera. Alla fine degli anni 70, John Lasseter viene assunto e fa il suo ingresso nel mondo incantato della Disney. Siamo negli Stati Uniti, California. Il giovane John Lasseter, dopo un'infanzia passata a suon di disegni e cartoni animati, finalmente ha la possibilità di toccare con mano quel mondo che tanto lo affascina. E il primo impatto è come un'immersione totale nel mondo delle favole. Come prima esperienza, infatti, a John è toccato un posto davvero particolare: Disneyland. It's the world's most beloved theme park, drawing more than 15 million guests per year. Welcome to Disneyland, California. John è talmente desideroso di far parte di questo ambiente che è disposto a fare qualsiasi cosa. Quando gli viene proposto di fare la parte del mozzo nello spettacolo di attrazione Jungle Cruise, nel parco dei divertimenti più famoso del mondo, accetta senza indugi. Si tratta di un lavoro momentaneo, in attesa di proposte più interessanti. E lì, osservando i suoi colleghi, impara a far sorridere i bambini e i più grandi. Pochi anni dopo fa il suo ingresso nel reparto animazione della Disney. Finalmente John è dove ha sempre desiderato essere. In questo periodo alterna lavori specificamente legati all'animazione con qualche comparsata nel dipartimento storie, dove vengono sviluppate le trame e le sceneggiature. Lasseter è come una spugna, cerca di assorbire il più possibile da ogni esperienza. Si butta, come farebbe uno dei suoi eroi animati. E prova ancora, prova su, dai, non mollare anche se... È molto dura, ma anche tu sai, non è facile. Se tu insisterai, se riproverai, ehi, credi a me, prova ancora e tu sarai il nuovo re. La simpatica canzone che avete appena ascoltato non solo è lo specchio delle sensazioni di Lasseter durante quel periodo, è tratta dal film di animazione La carica dei 101, una pellicola che si imprimerà in maniera molto nitida nella testa di John. Secondo lui, infatti, è allo stesso momento un punto di arrivo e un punto di partenza. Da un lato, rappresenta il livello più alto di un certo tipo di animazione. Dall'altro, deve delineare le scelte future che a suo parere la Disney dovrà compiere. C'è bisogno di innovazione, altrimenti il rischio sarà quello di ripetersi. Tra il 1980 e il 1981 l'attività di studio e ricerca di John diventa frenetica, anche se cominciano a sorgere i primi problemi. Col mio gruppo eravamo pieni di energie e di idee da suggerire. Avevamo un intento costruttivo, ma alcuni sembravano infastiditi da questo. Uno dei direttori mi disse: «Devi fare ciò che ti viene detto per 20 anni, poi a quel punto potrai decidere qualcosa». Ci misi un po' a realizzare, ma cominciai a sentirmi come un'arma caricata a salve. Stavo cercando di fare del mio meglio, ma allo stesso tempo mi stavo creando dei nemici. John non demorde e continua la sua ricerca. Esplora il mondo dell'animazione da cima a fondo e ben presto entra in contatto con alcune novità interessanti. Si tratta dei primi video animati fatti interamente al computer, bozze primordiali in cui al massimo si vedono delle sfere fluttuanti, ma Lasseter ne rimane colpito. Poi succede qualcos'altro. Cosa vuoi dire così? È tutto quello che sai dire? No! Ah, c'è dell'altro. Positivo e negativo, allora sei un bit. E dov'è il tuo programma? Sentirà la tua mancanza. No! Sono io il tuo programma? Nel 1982 esce nelle sale di tutto il mondo il film Tron. Il film è fatto dalla Disney. Lasseter non lavora direttamente al progetto, ma quando ne viene a conoscenza ne rimane illuminato. La pellicola presenta per la prima volta delle scene create interamente al computer. John sembra come folgorato sulla via di Damasco. Mentre scopre i segreti del film, nella sua testa si ripete che finalmente ha trovato quello che stava cercando. Il futuro dell'animazione passa per il computer. La felicità per la scoperta presto deve fare i conti con la realtà. Passata l'euforia, John si rende conto di essere l'unico ad aver avuto questa specie di visione. Intorno a lui nessuno sembra realmente interessato. Nonostante questo, pigia sull'acceleratore, proprio come le moto di Tron, e comincia la sperimentazione. Capisce che il computer può sostituire la camera multipiano fino a quel momento usata per aggiungere profondità all'animazione, per creare sfondi. Ma è ancora un'idea primordiale. Lasseter è proiettato verso il futuro, ma deve fare i conti con il presente. In questo periodo John deve sentirsi davvero un po' come Peter Pan. Mentre con entusiasmo prova a volare, dando forma ai suoi sogni, tutto quello che lo circonda sembra volerlo riportare con i piedi per terra. Idee contro costi, il campo di battaglia moderno. Sono giorni di chiacchierate fitte con Glenn Keane, altro futuro regista Disney, con cui Lasseter si confronta di continuo. Insieme decidono di sperimentare le loro idee realizzando un corto basato sul racconto Nel paese dei mostri selvaggi di Maurice Sendak. È un tentativo riuscito e particolare e non trascurabile in linea con i progetti dell'azienda. Caricato come una molla dopo questa prima esperienza, John decide di affrontare la prova più difficile. Misurerà le sue idee in un lungometraggio. Da principio prova con un salto più corto. Giudica esattamente la distanza. Allora, hai visto? Perfino così si può sbagliare. Perciò non prendere troppo alla leggera la gravità. Che cos'è la gravità? La gravità è quello che ti fa cadere. John è come il giovane Artù alle prese con un percorso di crescita importante. Ma non c'è nessun Merlino, come quello in formato scoiattolo che avete appena sentito, a metterlo in guardia sui pericoli. La scelta per il film cade su un racconto di 40 pagine di Thomas Dish, intitolato Le avventure del piccolo tostapane. L'idea di dare vita, carattere e movimento a un oggetto inanimato rimarrà uno dei punti cardine della sua nuova concezione di intrattenimento. Intorno i colleghi più vicini lo incoraggiano. È deciso, si andrà fino in fondo al progetto. Quello che non è stato considerato in tutto questo groviglio di entusiasmo e pionierismo è l'azienda. La Walt Disney è sì una meravigliosa macchina di intrattenimento, ma è anche un'industria con tutti i suoi contenuti pieni di realismo. A sbarrare la strada di John c'è un imperativo molto poco favolistico. La Disney è disposta a utilizzare la computer animation solo se farà risparmiare tempo e denaro, mentre per John è uno strumento di espressione ancora più costoso. Nell'arco di pochi minuti, dopo aver visto sfumare il suo progetto, John vede sfumare anche il suo posto di lavoro. Mentre è assorto nei pensieri e seduto nel suo ufficio, il telefono squilla. È il suo capo che lo informa che, dato che il progetto non si farà più, la Disney non ha più bisogno di lui. John Lasseter è licenziato. Sai, quei tedeschi non sono poi così malvagi. Sicuro, hanno commesso degli errori in passato, ma è per questo che le matite hanno la gomma per cancellare. Achtung, lavoratori! Abbiamo completato nostra valutazione di Zenderala. Ci rammarica annunciare i seguenti licenziamenti che leggerò in ordine alfabetico. Zinzen, Homer. È tutto. Per John è un colpo durissimo, come una perdita di identità. Il suo sogno è sempre stato quello di lavorare alla Disney, e la stessa Disney ora gli volta le spalle. Eppure le sorprese, come nelle migliori favole, non sono ancora finite. Per John Lasseter c'è in arrivo un amico un po' insolito e un finale trionfale, come nelle migliori tradizioni. Tra poco, a destini incrociati. Whenever I'm down, I call on you, my friend, a helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend. I call on you, my friend. I call on you, my friend. Listen. Destini incrociati. Stati Uniti, California. Siamo agli inizi degli anni Ottanta. Un giovane ragazzo con una passione infinita verso l'animazione ha appena visto le sue speranze svanire. La Walt Disney, l'azienda per cui ha sempre sognato di lavorare fin da bambino, lo ha da poco licenziato. Il suo progetto, quello di sostituire l'animazione classica con quella computerizzata, pare ancora irrealizzabile. Quello che questo giovane John Lasseter ancora non sa è che il destino ha pronta per lui una sorpresa speciale. La sorpresa ha il nome del secondo protagonista di oggi. Edwin Earl Catmull. Edwin Earl Catmull. La storia di Ed presenta alcune somiglianze con quella di John. Anche lui si appassiona fin da piccolo ai film della Disney e anche lui presto scopre che gli piacerebbe lavorare come animatore. Ma rispetto a Lasseter, Edwin intraprende un percorso molto meno lineare. Il giovane Catmull ha il viso e la voce del piccolo genio innamorato di numeri e calcoli. Una scienza piena di pragmatismo. Per questo, nonostante la tentazione, il suo percorso formativo segue la parte razionale del suo cervello e appena raggiunta l'età si iscrive all'Università dello Utah. Sì, beh, quando ero ancora alle medie pensavo soprattutto ai palloni aerostatici. Ma da quando sono al college ho deciso che volevo qualcosa di un po', diciamo, più stimolante. E così sono passato ai computer e ora l'aerostatica per me è diventata soltanto un hobby. Proprio come la voce che avete appena sentito, tratta dalla simpatica pellicola La rivincita dei nerd, Edwin cresce con una mente fuori dal comune, ingabbiata in un corpo da ragazzino. I suoi giorni si dividono tra la matematica, la fisica e, naturalmente, il computer. Ed è in gamba. Evan Sutherland, un pioniere nel settore dei computer, mette gli occhi sul ragazzino che, grazie a lui, comincia a scoprire la computer grafica. Non stupisce che una volta laureato, Catmull riceva molte proposte di lavoro. Dopo qualche indugio, finisce al New York Institute of Technology. E il motivo è presto detto. Alexander Shure, il fondatore, gli offre la guida del nuovo laboratorio di computer grafica. Un'offerta difficile da rifiutare. Siamo a metà anni 70. Ed forma il suo gruppo e si mette immediatamente al lavoro. Mentre si occupa di animazione in due dimensioni, Ed sposta piano piano il suo campo di attenzione verso le tre dimensioni, concentrandosi sui tipi di strumenti che possono favorire il lavoro dell'animatore. Come una calamita, il lavoro e gli studi di Catmull attirano l'attenzione di uno dei settori più interessati a questo tipo di sviluppi e con importanti risorse da mettere a disposizione: il cinema hollywoodiano. Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre. Mi hai detto abbastanza. Che sei stato tu ad ucciderlo. No, io sono tuo padre. E George Lucas, desideroso di continuare l'opera di Guerre Stellari con il seguito L'Impero colpisce ancora, a interessarsi ai lavori di Ed. Nel 1979, dopo averlo a lungo inseguito, Lucas affida a Catmull il compito di portare la computer grafica al cinema. E sarà proprio grazie al cinema che Ed tenderà la mano a John Lasseter per dargli una seconda chance. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found that you're a second man. Siamo in California, la patria del cinema. John Lasseter ed Ed Catmull stanno per incrociare i loro destini. Ma non sarà il primo incontro a dettare lo snodo della favola. Catmull è stato appena assunto da Lucas, vero e proprio deus ex machina della faccenda, che lo mette a capo della divisione che si occupa di computer grafica insieme ad Alvy Ray Smith. È in questo periodo, siamo agli inizi degli anni Ottanta, che si verificano i primi contatti tra Ed e John. Entrambi, seppur con attitudini diverse, conoscono molto bene le potenzialità del computer in animazione e non stupisce che si scambino pareri, ma nulla più per ora. Ed e John parlano. I colloqui tra i due hanno lo scopo di sondare il terreno, per capire se c'è una possibilità di collaborazione. Si osservano, si studiano, quasi come fossero avversari. La svolta arriva qualche mese dopo. John, appena licenziato dalla Disney, si reca a una conferenza sulla computer grafica che si tiene sulla Queen Mary, un vecchio transatlantico ora adibito a museo e ristorante, dove Ed tiene un breve discorso. Terminata la presentazione, i due si incontrano. Come sempre, è Ed a parlare, tempestando di domande il collega. John è ancora scosso per la sua vicenda professionale. Non dimenticherò mai quella giornata. Sentì Ed fare il suo discorso, poi una volta finito mi vide e mi venne incontro. E tutto eccitato mi chiese come andavano i miei progetti. Tutto quello che riuscii a dire fu che per il momento erano accantonati. Non avevo il coraggio di dirgli che mi avevano licenziato. Così mi chiese cosa avevo in mente di fare. E io risposi che non avevo le idee chiare. Così John ricorda il primo incontro alla Queen Mary. I due infatti, dopo essersi divisi, si rincontrano un'altra volta nel corso della giornata e riprendono il discorso. Questa volta la tensione si scioglie e lascia spazio a tutta la creatività e la capacità visionaria dei due, che finiscono per parlare per ore, scambiandosi idee, disegnando schizzi sui tovaglioli e ipotizzando scenari futuri. Gli occhi di Lasseter dimenticano per un po' il dolore del recente licenziamento e riprendono a brillare, come quando da piccolo sognava il mondo dell'animazione. Ed ascolta attentamente e dopo qualche ora chiede al collega di unirsi alla sua divisione alla Lucasfilm per aiutarlo in un progetto. John è incredulo, non può fare altro che accettare. John e Ed stanno per firmare un sodalizio importante per le loro vite. Nel dicembre 1983 Lasseter si unisce ufficialmente al gruppo di lavoro di Catmull. Il computer sta per fare il suo trionfale ingresso nel mondo dell'animazione. Avevano parlato a lungo di passione e spiritualità. E avevano toccato il fondo della loro provvisorietà. Destini incrociati. Siamo nel 1984, in California, negli studi della Lucasfilm. John Lasseter ed Ed Catmull stanno lavorando insieme. È stata una decisione presa in seguito a un incontro apparentemente formale, presto trasformatosi in un'avventura nel futuro, in cui i due hanno capito di volere attraversare insieme le frontiere dell'animazione. Adesso è ora di mettere in pratica tutte le loro idee. Il gruppo, coadiuvato da altri professionisti del settore, si mette al lavoro. Lo scopo è quello di realizzare un corto che mette in risalto tutte le novità e le potenzialità della computer grafica. Si intitolerà Le avventure di André e Wally B. Lasseter, come sempre, si getta anima e corpo nella realizzazione. Questa volta alle spalle non c'è una serie di dirigenti titubanti preoccupati dei costi e dei benefici, ma un team deciso ad andare fino in fondo al progetto. E John se ne accorge subito. Io pensavo che i personaggi sarebbero stati animati a mano, secondo la tecnica classica, lasciando al computer solo gli sfondi. Ma Ed decise di sfidarmi e mi disse: «Stiamo sviluppando un nuovo sistema, per cui perché non usiamo il computer anche per i personaggi?» Ecco come arrivai a produrre il primo cartone interamente fatto a computer. Le avventure di André e Wally B va oltre le aspettative. Quella che doveva essere la semplice storia di due minuti scarsi di un ragazzino alle prese con una fastidiosa ape in un bosco diventa ben presto una pietra miliare nella storia dell'animazione. Grazie alle competenze tecniche di Catmull e del gruppo di lavoro da lui stesso formato, John è libero di poter finalmente esprimere tutto il suo talento visionario. Mi accorsi subito che il computer avrebbe potuto offrire molte possibilità a uno come me. Per realizzare i cartoni animati classici della Disney, devi avere qualità straordinarie come disegnatore, ma devi anche avere sempre sotto controllo il movimento e il timing inseriti nei frames. In questo modo è complicato concentrarsi sui movimenti dell'animazione. Il computer ha cambiato tutto questo. È come la differenza che c'è tra scrivere battendo su una macchina da scrivere dove non puoi fare cambiamenti e farlo con un software dove puoi tagliare, incollare e utilizzare altri strumenti di editing senza problemi. I risultati della Lucasfilm ben presto sconfinano oltre le pareti degli uffici dove Catmull, Lasseter e altri cosiddetti nerd con le loro camicie fuori moda, i loro sguardi da bimbi cresciuti pieni di peluria e la loro carnagione perennemente alla rincorsa di gradazioni di bianco sono soliti lavorare. Ad attenderli fuori c'è un altro tipo fuori dal comune, abituato a guardare avanti, là dove l'occhio umano normalmente vede sfocato. Si chiama Steve Jobs, che intuisce il valore del lavoro dello staff e se lo porta via. Steve arriva da un percorso molto simile a quello di John. Anche lui, come Lasseter, ha dovuto rialzarsi dopo un tonfo tanto grande quanto rumoroso. E lui stesso a raccontarlo anni dopo, davanti a una folla di neolaureati estasiati. Avevamo creato il nostro prodotto migliore, il Macintosh, un anno prima. E io avevo 30 anni. E fui licenziato. Ero fuori, in maniera plateale. Quello che era stato il principale scopo della mia vita adulta era andato. E io ero devastato da questa cosa. Ma qualcos'altro lentamente stava crescendo in me. Ancora amavo quello che avevo fatto. Ero stato respinto, ma ero ancora innamorato. E per questo decisi di ricominciare da capo. Entrai in uno dei periodi più creativi della mia vita. Nel 1986, Jobs fonda la Pixar Animation Studios. Catmull finisce a capo dell'ufficio tecnico. Lasseter è vicepresidente del dipartimento creativo. C'è tutto quello che serve per una rivoluzione coi fiocchi. L'obiettivo è lì davanti alle loro lenti spesse. Sta per nascere il primo lungometraggio d'animazione interamente fatto al computer. L'intrattenimento non sarà più come prima. A cavallo tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, gli studi della neonata Pixar sono in fermento. In ballo c'è un grosso progetto, molto ardito, che si chiama Toy Story, una storia d'animazione interamente girata in computer grafica. Lasseter è al lavoro insieme all'inseparabile Catmull, quando la Disney torna a fare capolino nella sua vita. Per la produzione, infatti, c'è bisogno di un colosso come la ex azienda di John, ma che naturalmente vuole imporre delle condizioni. John, questa volta, vuole ribattere colpo su colpo. La Disney ci spingeva a rendere i personaggi più taglienti. Non facevano che ripetercelo. Pensai che questo non era il film che volevo realizzare. I personaggi urlavano, si prendevano gioco degli altri. Li odiavo. Quando lo dissi a quelli della Disney, loro minacciarono di trasferire l'intero dipartimento. Io gli chiesi ancora un po' di tempo. Insieme al mio staff mi rimboccai le maniche e in meno di 2 settimane arrivammo con la prima parte di Toy Story. Glielo portammo e rimasero sbigottiti. Così imparammo a fidarci di noi stessi e del nostro modo di fare film. Nel 1995 Toy Story, il mondo dei giocattoli, dopo anni di lavorazione, esce nelle sale. Ed è un trionfo. Ciao! Ehi, calma, ti ho spaventato? Non volevo, scusami tanto, il mio nome è Woody e questa è la stanza di Andy. Volevo solo dirti questo e dirti anche che c'è stato un po' di paraonda. Questo è il mio posto, capisci? Sei il capo delle forze dell'ordine locale. Bene, sono Buzz Lightyear, Space Ranger, unità protezione universo. La mia astronave è precipitata qui per sbaglio. Esatto, proprio per sbaglio. Perché vedi, questo letto è il posto dove sto io. Devo riparare i turbopropulsori. Usate carburanti fossili o avete già scoperto la fusione cristallina? Noi abbiamo le stilo alcaline. Attento! Fermi, chi siete? Sono i miei amici. Tutto ok, amici! Conosci quelle forme di vita? Sì, sono amici, i giocattoli di Andy. Tutto a posto, gente, venite fuori. Sono Buzz Lightyear e vengo in pace. Oh, sapessi come sono contento che non sei un dinosauro! Il film diventa campione di incassi. Buzz Lightyear e Woody riescono a realizzare il sogno di Ed e John, facendo accomodare nelle poltrone genitori e bambini e riuscendo a divertire entrambi. È la nascita di un nuovo genere. Per i due colleghi è l'inizio della favola che avevano sempre sognato di vivere. Lasseter verrà insignito del premio Oscar e insieme a Catmull sfornerà altri capolavori e memorabili personaggi. Benvenuti sull'Himalaya! Abominevole! Non è incredibile? A voi io sembro abominevole? E perché non potevano chiamarmi l'adorabile uomo delle nevi? O il simpatico uomo delle nevi, per la miseria? Io sono un tipo socievole. Ti va un cono? No, non preoccuparti, è al limone. E tu lo vuoi, gigante? Un cono? La favola ha il suo lieto fine qualche anno più tardi. Nel 2006 la Walt Disney Company acquista in maniera definitiva la Pixar Animation Studio per 7,4 miliardi di dollari contro i 10 milioni pagati da Jobs all'epoca della nascita nel 1986. Ed Catmull è nominato presidente della Walt Disney Animation Studios, mentre John Lasseter diventa il direttore creativo. Cenerentola è diventata principessa, senza perdere il vizio di continuare a far sorridere grandi e piccini. Psst, ehi, voi, salve, scusate. Shh. Mi dite dove mi trovo? Shh. Il signore ha fatto una domanda. Domando scusa. Cerco di essere fedele al mio personaggio. Io mi chiamo Cono di Panna, lui è il barone von Shh. Ciao, io sono Trixie. Shh. Ragazzi, non so dove mi trovo. Siamo o in un caffè parigino o in un caffè del New Jersey. Sono appena tornata da una visita medica con una notizia strepitosa. Facciamo improvvisazione, rilassati, divertiti, andrà tutto bene. Esistono degli ingredienti base per ogni buona torta e ogni buona favola. La storia di John Lasseter ed Edwin Catmull, in questo senso, forse rasenta la perfezione. Se c'è una morale, probabilmente non si trova alla fine del racconto, ma è nascosta tra le pieghe degli avvenimenti che hanno circondato la vita di questi due colleghi. E non c'è persona migliore di chi, come Steve Jobs, li ha conosciuti entrambi e insieme a loro ha condiviso i sogni per aiutarci a capire quanto il nostro destino dipenda in qualche misura da una serie di fattori che è importante non dimenticare mai. Your time is limited. So don't waste it living someone else's life. Il vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro. Non fatevi intrappolare dai dogma, che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui offuschi la vostra voce interiore. E cosa più importante di tutte, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. In qualche modo, loro sanno che cosa volete realmente diventare. Tutto il resto è secondario. I'll take you up on a dare, anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Punching, jumping, I don't care. My, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, do. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.